24 mattino. Niente. Sindaca, è preoccupata? Vabbè, non c'è. Ha fiducia nella magistratura, sindaca? Ma te lo immagini che dicesse: no, non ho fiducia e mi stanno sulle palle. Allora, io ovviamente parto dalla Raggi oggi, vi darò le notizie, le opinioni diverse e anche la mia su questa vicenda, perché c'è qualcosa che non torna e spiegherò qual è. Allora, la Repubblica: Raggi va processata per falso, Movimento 5 Stelle in difesa resterà al suo posto. Il Fatto: processate la Raggi, ha mentito su Marra. L'editoriale di Travaglio, falso e falsetto, critico. Libero: lotta dura alla famiglia, il governo batte il record di leggi contro genitori e figli. Avvenire: prima la famiglia, un suggerimento per la finanziaria. La Verità: la lobby dell'industria dei farmaci dietro i cortei per l'aborto. Libero. Il Messaggero, anche loro sulla Raggi, l'apertura: a processo per falso. Il Messaggero è il giornale più duro con Virginia. La Stampa: bugie sulle nomine, la procura chiede di processare la Raggi. La sindaca è sotto accusa per falso, cade l'ipotesi di abuso di ufficio. Attenzione, questo è importante. L'amara verità capitolina e l'editoriale di Marcello Sorgi. Il Foglio: non ci cascate, questa è l'apertura. Il garantismo di Grillo sulla Raggi non è la spia di una doppia morale, ma è la naturale evoluzione di uno squadrismo digitale. Questo è il titolo di apertura. È un romanzo. Cerasa. Ah, che forza questo blues. Il Sole 24 Ore: Team Vivendi, violati gli obblighi di notifica, via all'iter per la multa, rischio di nullità per atti successivi all'adempimento. E questa è una notizia importante perché è una guerra Italo-Francia che si gioca sulle industrie. Tali e quali show, l'apertura del Tempo e Gianmarco Chiocci. Corriere della Sera: giustizia, il nuovo caso Roma, sobri, sobri. Il Giorno: recidivo, la tredicenne aggredita ha preso il mostro dell'ascensore, lo chiamavano così, e viene portato in tribunale, si chiama Edgar Bianchi. La Gazzetta dello Sport: baby salva Milan, e il Corriere dello Sport: Eurocoppia, Europa League, Carsedo Immobile, trionfo Lazio nell'Olimpico vuoto. Allora andiamo subito sulla Raggi. E cosa volevo leggervi? Volevo leggervi quello che dice Travaglio, no? Perché Travaglio è sempre stato vicino al Movimento 5 Stelle. La Raggi, diciamo, la giudica molto severamente. E dopo aver dato una stoccata ai media, spiega perché lui ha delle perplessità. Senti Fiorello che imita la Raggi, la vogliamo sentire per cortesia? Pronto? Luca, dai. Il Movimento 5 Stelle cambierà Roma. Destra e sinistra sono uguali. I vecchi partiti hanno ucciso la madre di Bambi e fatto affondare il Titanic. Ma che? Dico gli affluenti del Po. Gli affluenti del Po, le dico gli affluenti del Po. Allora, sbagliano Beppe Grillo e Virginia Raggi a cantare vittoria per la conclusione dell'indagine sulla sindaca di Roma, scrive Marco Travaglio sul Fatto. Il falso ideologico per cui i PM chiedono al GUP di rinviarla a giudizio non è un reato bagatellare, tantomeno per un esponente di un Movimento 5 Stelle che fa della trasparenza una bandiera. Si può capire invece il sollievo di Raggi e Movimento 5 Stelle per la caduta degli altri reati, ben più gravi, che le venivano addossati in partenza. Senza contare quelli che si erano inventati i giornaloni: corruzione, riciclaggio, tesoretti occulti, voti comprati per scalare il Movimento 5 Stelle e via vaneggiando sulle polizze di Salvatore Romeo, fin da subito definite dai PM penalmente irrilevanti, pur di dipingerla, scrive Travaglio, come una corrotta matricolata. All'inizio dell'indagine era accusata di 5 reati: abuso d'ufficio per la nomina di Romeo caposegreteria, abuso d'ufficio per la nomina di Carla Raineri a capogabinetto, rivelazione del segreto del presunto dossier contro Marcello Di Vito, suo rivale alle comunali, abuso d'ufficio per la nomina di Renato Marra a capo ufficio turismo del comune. Dei primi 4 è stata chiesta l'archiviazione, è rimasto solo l'ultimo. Allora, quello che voglio dirvi è che io vado oltre Travaglio, scusate, dicevano questa nomina è illegittima e l'hanno detto con certezza che violava 100 leggi, che sarebbe stata sospesa, veniva in carcere, eccetera. Mi ricordo, io andai in televisione a chiedere sommessamente, ma tutti gli altri hanno fatto la stessa cosa e infatti oggi questo proscioglimento su quel reato è dovuto proprio al fatto che c'erano dei precedenti. Ma allora la menzogna che rimane è una menzogna molto strana, cioè si prendono le chat della Raggi con Marra per dire lei non sapeva nulla e invece IPM ha detto che di quella nomina sapeva. Ma se non era un reato, che importanza ha? Boh, mistero. Hanno inventato il boomerang. Allora, dalla vicenda della Raggi, su cui ovviamente c'è tutto, ma non abbiamo detto quasi tutto, io passerei a quella degli scontri di Roma. E qui va cambiato tono, perché di nuovo è guerra nella capitale e di nuovo è guerra comunque sugli immigrati. A schifo! A schifo! A cambio musica. Corriere, pagina 20. Sì, perché tutto inizia perché ha una famiglia italiana, ma d'origine eritrea. Voi sapete che poi per le ex colonie c'è un trattamento speciale. È stata assegnata una casa. Ora immaginate. E questa famiglia italo-eritrea va per prendere la casa, scontri, barricate, feriti al quartiere Trullo, periferia di Roma, verso l'euro. Allora, Rinaldo Frignani, voi qui non entrate, e il Trullo torna a campo di battaglia. Lo era stato anni fa con i raid antiromeni, lo è stato di nuovo ieri mattina per impedire ai vigili urbani di sgomberare una casa popolare dell'Ater in via Giovanni Porzio, occupata abusivamente da una madre e da un figlio, per poi consegnarla a inquilini in regola che avevano ottenuto quell'assegnazione. Una famiglia di origine eritrea, ma italiana a tutti gli effetti. Ora non ci andranno più. Troppa paura delle ritorsioni. Alla signora che avrebbe dovuto prendere possesso dell'immobile, l'agente del quartiere ha gridato: copriti la faccia, vattene e torna al paese tuo. Una trentina di giovani, alcuni dei quali appartenenti a Forza Nuova, al movimento Roma e Romani e altri dei quartieri, hanno presidiato l'ingresso, le scale del palazzo, alzando barricate, lanciando sanpietrini contro gli agenti della municipale che hanno chiesto aiuto ai poliziotti. Alla fine il bilancio è pesante, scrive sempre Frignani sul Corriere della Sera. 3 feriti fra le forze dell'ordine, 1 in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa. È incredibile, però è quello che accade. Allora, Ius Soli, vi dicevo che sta diventando un romanzo e ovviamente c'è ancora questo cambio. Bene, Repubblica formalmente dà l'apertura allo Ius Soli perché lo sta seguendo molta attenzione. Allora, ieri eravamo rimasti allo Ius Boschi, non si può fa. Oggi Grasso dice e Del Rio rilanciano e Del Rio dice si deve fare, addirittura Repubblica titola Del Rio contro la Boschi come se fosse una sfida e il punto è: si deve votare ora o non si deve votare ora? Si può calendarizzare oppure no? Ius Soli no alla resa. Il pezzo a pagina 8 di Goffredo De Marchis. Il ministro prova a riaprire i giochi anche nel PD, la CEI presse i centristi. Unioni gay sì e cittadinanza no. Questa è bella, grande la CEI. Allora, mettere un punto, fermare lo spirale del dibattito sullo Ius Soli. Con questo obiettivo condiviso da Matteo Renzi, Maria Elena Boschi aveva chiuso la porta mercoledì sera alla Festa dell'Unità dicendo in pratica che se ne sarebbe occupato il prossimo Parlamento. Ma ieri Graziano Del Rio ha riaperto dalla festa di MDP. Siamo ancora in tempo, non arrendiamoci all'inverno prima di avere combattuto. È una battaglia non di un gruppo politico ma di civiltà. Non arrendiamoci all'inverno. È una cosa quasi shakespeariana. Ed è questa la posizione di Palazzo Chigi. Il segretario del PD non ha smesso di difendere la legge, vorrebbe però che non si alimentasse una polemica quotidiana sul tema nell'attesa del momento giusto. È destinata a ritorcerci solo contro il Partito Democratico questa vicenda, perché è un paradosso, dice Renzi ai suoi collaboratori, raccontato da De Marchis, che si dia la colpa in ritardo al PD. Noi siamo quelli che hanno proposto la norma. Sì, ma quello che diceva ieri Bersani e Del Rio era: mettete la fiducia, se ci credete, mettete la fiducia. Allora, tante notizie, ma una divertente prima di andare sul meteo è Vittorio Sgarbi, perché ha annunciato, il Corriere della Sera, pagina 12, ha annunciato che lui vuole fare l'assessore della giunta Musumeci. Hanno raccolto un accordo, hanno raggiunto un accordo, Sgarbi sarà alleato ai Musumeci, ma sapete che solo pochi giorni fa, qui da questo microfono, lui diceva... Quindi avere un risultato lì, far perdere il centrodestra o fare un risultato buono, in ogni caso... Cioè vuoi far perdere il centrodestra? Eh beh, sarà quasi inevitabile. Sarà quasi inevitabile. Meteo, pubblicità! Ma voi veramente non state bene. Fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Quattro mattino. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Grande Michael, tu sì che avevi capito. E sul fronte dei money abbiamo tante notizie oggi. La prima non farà felici molti dei nostri ascoltatori ed è argomento per cani e gatti. Nuovo assalto alle pensioni. Franco Bechis sul Libero, spulciando la nota di aggiornamento del DEF, ha trovato una particella in cui si definisce inevitabile una nuova correzione della spesa previdenziale. C'è una doccia fredda, Libero, pagina 1, Bechis, nella nota di aggiornamento del DEF appena depositata dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan per i futuri pensionati italiani. È davvero a pochi anni dall'approvazione della legge Fornero, che ha innalzato i limiti, come sappiamo, dell'età pensionabile, la simulazione sui costi della previdenza nei prossimi anni indica ancora una volta una spesa fuori controllo. E siccome quel documento, scrive Bechis sul Libero a pagina 5, con le sue considerazioni tecniche sarà letto dagli uffici della Commissione Europea, bisogna attendersi nel breve e medio periodo un nuovo intervento da parte dell'Unione Europea con la pistola puntata alla tempia. Vero? Non vero? Ragazzi, c'è da tremare, Fincantieri. Avevamo raccontato ieri anche con Giannino i dubbi sulla tenuta del patto di gestione. Bene, i mercati non sbagliano mai. Il Sole 24 Ore, pagina 2. A pagina 2 scrive: Fincantieri soffre in borsa meno 5,2%. Resta il nodo della governance, cioè tradotto in italiano, chi comanda? Il giorno dopo l'intesa su STX France, Fincantieri soffre in borsa lasciando sul terreno il 5,2% nonostante il buon avvio, più 2,6. Una performance che secondo gli analisti sconta da un lato le prese di beneficio dopo il rialzo degli ultimi mesi, ma anche qualche perplessità sul compromesso raggiunto che garantisce la maggioranza a Fincantieri mediante un prestito francese, e questo è il nodo. Allora, diciamo dei mercati che giudicano, debacle in borsa di Ryanair. Sì, perché in due settimane, pensate, il titolo ha perso 1,8 miliardi di capitalizzazione. Riccardo Barlam sul Finanza e Mercati a pagina 32. E poi una notizia di tendenza che in qualche modo ci deve stupire riguarda, pensate, le badanti. Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera: più contributi per colf e badanti. Questa è una cosa che cambierà le nostre vite se dovesse passare, perché la richiesta dei sindacati è che aumentino i contributi per dare più copertura previdenziale. E come racconta Salvia, le famiglie mediamente, hanno fatto i calcoli, dovrebbero versare 1000 euro in più l'anno per i contributi previdenziali. Il passaggio è contenuto nel documento che CGIL, CISL e UIL, scrive Salvia, Corriere della Sera, pagina 42, hanno inviato al governo con la richiesta sulla previdenza, lo stesso in cui chiedono di fermare l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni per tutti i lavoratori. Oggi i contributi per la pensione dei collaboratori domestici versati dalle famiglie sono articolati su due livelli, standard per i contratti fino a 24 ore alla settimana, dimezzati dalla 25esima ora in poi. Il meccanismo è stato pensato per alleggerire il costo sostenuto dalle famiglie che hanno bisogno di molte ore d'aiuto, ad esempio quelle che hanno una badante a tempo pieno. Ma con meno contributi si finisce per alleggerire le pensioni. Salvia Corriere della Sera è un pezzo interessante, anche molto lungo, ma la ciccia che vi racconto è tutta qua. I super ricchi sul Libero, pagina 21, oggi Libero è scatenato sulle materie dell'economia, aumentano ancora i super ricchi. In Italia, ovviamente, stiamo dicendo, nel nostro paese. Sono cresciuti il 10%, Nino Sunzeri, a pagina 21, il numero di italiani che ha un patrimonio finanziario di oltre 1 milione di euro è salito, pensate un po', a 252.000 unità. La media del portafoglio è però ferma a 54.000 euro. Allora, badanti, pensioni, super ricchi, quante cose da discutere, ma bisogna andare al codice antimafia. Sì, perché è stato... bravo, un grande regista oggi, eh? La piovra. Sì, perché è stato annunciato ieri, ma è già polemica. Grasso ha sollevato dei distinguo e ovviamente si dibatte. Corriere, pagina 14, ma anche tutti gli altri giornali. Il codice antimafia non si cambia, dice Grasso. Alto là dal presidente del Senato e nel programma del PD... modificarlo sarebbe un boomerang. C'è preoccupazione, per esempio, anche del vicepresidente di Confindustria, che spiega in un'intervista al Corriere della Sera a Rita Querzè, Giulio Pedrollo, classe 72, vicepresidente degli industriali italiani, da certe regole possono arrivare effetti nefasti, così si ingessa il paese. Qual è il problema per gli imprenditori? Chiede la Querzè. E Pedrollo risponde: l'imprenditore ha bisogno di un quadro di regole certo e nei tempi di applicazione, è chiaro nell'interpretazione. Non è quello che accade nel campo minato della giustizia, dove troppe leggi mal coordinate fra loro, e adesso anche quest'ultima disconosciuta persino da chi l'ha votata, provocano effetti indesiderati come la fuga dalle responsabilità di chiunque abbia potere di firma. E questo è il problema. Bene, vi ricordate il caso Scaglia? Vi ricordate quell'arresto clamoroso, la carcerazione, l'isolamento? Vi ricordate quella storia? Su La Verità torna su questa vicenda con due articoli Antonello Piroso, raccontando da un lato che oggi Scaglia viene assolto e dall'altro il calvario di un altro innocente, Enzo Mannina. Siamo sulla Verità a pagina 9, che praticamente spiega il suo calvario: assolto dopo 10 anni, deve pagare i debiti milionari fatti dal commissario. Con le nuove regole che si estendono ad altri reati, obbrobbi del genere, dice lui, si moltiplicheranno. Enzo Mannina era un dirigente di una industria, fu accusato di essere il vice capo del comandamento mafioso di Trapani, condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione nel lontano 2008, oggi totalmente prosciolto. Così come Scaglia, Carlo Tarallo, ve lo dicevo, lo prendo sempre La Verità e su diversi giornali, lo scandalo ha trovato fine, il manager assolto anche in appello per il riciclaggio di Fastweb, fece 11 mesi di arresto. E allora qui il problema delle regole, delle garanzie, beh, questo è un problema molto importante. Allora chiudiamo questa pagina del codice antimafia e andiamo ai personaggi e alla politica. Ovviamente Grasso, perché ancora lui questa sua sortita alla festa del MDP, che ieri era una specie di circo in cui c'erano tutti i big importanti, beh, questa ha fatto scrivere su tutti i giornali questo retroscena: si vuole candidare, oppure può essere l'uomo che prende il posto di Pisapia alla guida della sinistra. Quando fui presentato come candidato, ecco, ho tirato fuori questo ragazzo di sinistra che era in me da sempre. Una volta che lui mi ha proposto di venire in politica è venuto fuori. E il ragazzo di sinistra, Iana Milella su Repubblica: l'invito è segreto, rivolto a Piero Grasso da MDP. Diventare uno di loro non appena sarà possibile, cioè quando il presidente del Senato avrà dismesso i suoi panni istituzionali, e se la trattativa di MDP con Pisapia dovesse andare male, correre come leader per l'alleanza che si sta creando fra i bersaniani, Sinistra Italiana, possibile, tutti quanti. Quindi questo era Grasso, e ovviamente non c'è solo questo sui giornali, perché C'è, secondo Repubblica, prove di alleanza Renzi-Franceschini, una svolta a sinistra del ministro della cultura che si sarebbe avvicinato a MDP. Però devo dirvi che io ero presente, ho seguito questo intervento, anzi addirittura ero io a fare quell'intervista sul palco ieri. Non mi è sembrato che Franceschini fosse così vicino. Allora, stiamo avvicinandoci rapidamente alle strade, ma voglio leggervi l'ultima cosa in questa fase, e ovviamente da Il Foglio, perché Il Foglio, come sapete, ha una linea, sta lanciando questa campagna che è interessante, nessuno la riprende, ed è la campagna su inserite la bandiera europea nei vostri simboli. E va bene, mettete l'Europa nel simbolo del PD, Veltroni, Sala, Nardella, Fassino, Gozzi dicono sì alla proposta del Foglio. E poi c'è un'altra cosa importante che telefona su quello che dirò dopo. È il pezzo di apertura praticamente di Daniele Raineri. Haftar sta distruggendo il piano Minniti che aveva fermato i barconi, perché le forze del generale combattono per cacciare i gruppi alleati dell'Italia contro i trafficanti mentre lui è in visita a Roma. Beh, non c'è male, perché poi vi leggo nella mitragliata che cosa ha chiesto Haftar all'Italia. E sono le due facce, sono le notizie che rimbalzano da un capo all'altro e il racconto dell'assurdo che comunque stiamo vivendo. Strade. Cippalippa. Mattino. Non dite niente a Crozza di questa questione, per carità, però rimanga tra di noi. Allora, quando venga lì il sottosegretario Presidente del Consiglio, c'è il solito tourbillon delle stanze, e mi assegnarono una stanza. In quella stanza, casualmente, diciamo, forse del capoccione, la stanza era, diciamo, con la scrivania di Mussolini, ministro degli esteri. Ora, no, avrete riconosciuto la voce del ministro Minniti, l'unico politico che usa più diciamo di D'Alema. Allora, Angelino Albano è il oggi bisogna gramellinare, perché Massimo Gramellini interviene, diciamo, a gamba tesa su Angelino Albano, che è una sua creazione, cioè su Albano il cantante, che vuole entrare nella mediazione addirittura con la Corea. Dopo che gli appelli delle Nazioni Unite, della Cina e persino del senatore Razzi erano caduti nel vuoto, l'umanità guardava ad Albano Carrisi come all'ultima speranza. Il Corriere, Gramellini, pagina 1. Nello scacchiere internazionale solo lui aveva l'autorevolezza necessaria a convincere il prestigiatore nordcoreano Kim Salabim a rinunciare ai suoi giochi atomici. È opinione diffusa che la nomina di Alfano, ministro degli esteri, sia dovuta a un refuso della stampante di Palazzo Chigi. Il prescelto era lui, Albano, e non tanto perché in una sola edizione del Festival di Sanremo ha raccolto più voti di quanti quello ne abbia raccolti in tutta la sua vita, ma perché può vantare una vastità di relazioni internazionali impressionanti. Basta pensare che per lui Putin ha aperto le porte del Cremlino, mentre a Salvini non ha concesso neppure un selfie. Albano ha riflettuto a lungo prima di decidersi al grande passo. Ieri lo ha compiuto, ha scritto su Oggi una lettera aperta al carissimo presidente Kim, così si rivolge, per proporgli uno scambio equo. Tu devolvi i soldi dei missili alla gente che soffre, io vengo a cantare per te nel tuo paese, incoronandoti imperatore del bene. Kim potrebbe essere attratto dall'offerta, data l'epidemia di cantanti che ha colpito il suo paese, dove chi stecca dal coro viene direttamente messo al muro. Ma al di là dell'esito ancora aperto della trattativa, resta la certezza che nella civiltà dello spettacolo tutti i ruoli siano saltati e nulla sia più davvero in grado di stupire, nemmeno che l'imperatore del bene accetti la proposta di disarmo e, per via del solito refuso, organizzi un concerto con Alfano. Corriere, pagina 19. Uccise il figlio. Niente ergastolo, non è scattata l'aggravante, perché non era il figlio naturale. Cioè, scopriamo che abbiamo un codice per cui ammazzare il tuo figlio adottivo ti fa prendere meno anni che ammazzare un figlio naturale. Ma Ma non siamo alla follia su questo? Lo collego con una cosa che ho visto raccontata da Facci su Libero, che riguarda invece l'aggravante dello stupro. Pagina 1, Libero, Filippo Facci: se stupri una sconosciuta hai una pena diversa se violenti la tua fidanzata. Eh sì, è così. La disgraziata legge del femminicidio contiene questa aggravante, per cui lo stesso reato, due stupri diversi. Si chiede Facci, c'è l'aggravante. E io vorrei chiedere a una qualsiasi donna se fra i due mali, in prospettiva, essere stuprata dal marito o da un albanese per strada, preferirebbe il primo o il secondo. È una domanda provocatoria, ovviamente. Il Messaggero, pagina 1, topi a scuola, la scuola infestata, sono entrati nei disegni e negli incubi dei bambini, pensate. Allora il generale Haftar, il generalissimo Haftar, pagina 9, il Corriere della Sera. Haftar, di cui abbiamo sentito cosa fanno le sue milizie mentre lui qui in viaggio per l'Italia, ovviamente ha rilasciato un'intervista mentre è in visita ufficiale, dicendo che cosa vuole fare: dialogo, grandi temi, diritti civili. Haftar: vi aiutiamo a fermare i migranti, dateci gli elicotteri. Ma dai, va, ma vai a zappare. Melania Rizzoli sul Libero, questa perla: di amore orale si può anche morire. Il rischio del cancro alla bocca, sapete che la Rizzoli, oltre ad essere parlamentare di Forza Italia, è anche medico, ma c'è un'articolessa di una pagina su questo tema: di sesso orale si può anche morire. Le Iene, 20 anni, una bellissima intervista del loro creatore Davide Parenti a Caverzan sulla Verità, tutta una paginata. Le Iene sono un pezzo di storia culturale, nel bene o del male, della televisione italiana. Però è interessante questo aneddoto: il drag wipe. Abbiamo, con un escamotage, toccato la fronte ai parlamentari con un panno per togliere la sudorazione. Analizzando il sudore, dice Parenti, creatore delle Iene, a Caverzan, si può sapere se nelle 36 ore precedenti si è fatto uso di stupefacenti. Il 33% del campione dei parlamentari ne aveva fatto uso. È un'inchiesta finita sui giornali di tutto il mondo, però pensate, lui ha preso 15.000 euro di multa e 6 mesi di galera con l'accusa violazione della privacy. Allora, è su tutti i giornali, ma lo prendo da Repubblica, è un po' una delle follie strane. Il sindaco leghista di Alessandria contro Umberto Eco. Era stato già deciso di intitolare una scuola al maestro della semiotica e della letteratura italiana e il sindaco ha detto no, questa cosa non sa da fare, deve restare la vecchia denominazione, quella destinata a Carlo Piana, e il Alessandria si divide sul nome della rosa. È bello, Paolo Griselli. La vicenda è interessante perché praticamente io ancora non ho capito qual è l'obiezione, cioè non c'è una spiegazione chiara del motivo per cui Umberto Eco non andrebbe bene. Ha venduto troppo? Al sindaco non è piaciuto il nome della rosa? Ha molta, come dire, nostalgia per il vecchio nome? Non si è capito. Però Gianni Rivera, intervistato dal quotidiano di Largo Fochetti, dice: Umberto Eco è stato un grande, ma in democrazia decide chi ha la maggioranza. L'ex calciatore Gianni Rivera, alessandrino, regista del Milan e della Nazionale, commenta così la baruffa che agita la sua città. Rivera come giudica questa polemica? Se la scelta aspetta la giunta e se sindaco e assessori hanno deciso in quel modo, è un orientamento che non si può modificare, è normale. In democrazia decide la maggioranza, decidono gli eletti. Ha conosciuto Eco? Sì, in alcune occasioni in cui eravamo premiati insieme, abbiamo trascorso un pomeriggio per questa ragione qualche anno fa insieme. Quali rapporto mantengono con la città gli alessandrini come lei e Eco, diventati famosi lontano dal luogo di origine? Quando si raggiungono certi livelli è inevitabile allontanarsi dalla provincia, ma io ho sempre mantenuto un rapporto stretto con la città. Lei ha studiato al Piana? No, ho frequentato l'istituto commerciale, poi ho cominciato a giocare e allora ho studiato regia, ma calcistica. Allora, il grande Rivera che torna mi fa piacere, perché l'Italia è anche il valzer dei personaggi che vanno e che vengono. L'ultima perla è questa, sul Libero, perché oggi c'erano tante notizie divertenti, voi dite, ma perché leggi questo o quello? Perché trovo le notizie. Come diceva Cossiga, la zuppa si fa con quello che c'è. E allora sentite questa, l'ISIS converte Star Trek. Lorenzo Motto, la pagina 29, addio pacifismo, adesso chi spara per ultimo è un pirla. Cioè è stato modificato, ci racconta il giornalista Libero, il codice di sceneggiatura per cui i Trekkies non erano mai cattivi e aggressori, e adesso no, nel tempo dell'ISIS hanno deciso gli sceneggiatori dell'ultima serie che va in onda proprio in questo momento, pensate, si chiama Star Trek Discovery, esordisce adesso, ed è cambiato il codice, visto che i tempi dell'ISIS hanno cambiato la percezione dell'altro. Star Trek può sparare, state attenti, Star Trek può sparare. GR, e poi tornano i cani e i gatti e tante novità e ospiti. Dai, ulula Oscar. Ma non voglio ulula.